E in questo quarto capitolo di Marco, dal versetto 26 al 34, abbiamo due parabole sul regno di Dio, sul regno dei cieli. Il chicco di grano che cresce per sua nativa forza e il granello di senape che è piccolissimo eppure riesce a crescere in un arbusto, quasi un mezzo alberello, addirittura da ospitare degli nidi di uccelli. Ci insegna queste due parabole che il regno dei cieli ha dentro lui la forza per crescere. La nostra collaborazione non sostituirà mai la forza originaria del regno dei cieli. E questo è molto importante, perché tante volte noi crediamo che anche la vita di una comunità, la vita religiosa, vada avanti a furia di iniziative, a furia di nostro darci da fare. È anche vero, perché anche il chicco di grano, anche il granello di senape vanno coltivati. Non è che sono buttati lì nel terreno, bisogna preparare il terreno, bisogna concimarlo, bisogna dargli umidità, bisogna dargli nutrimento, però non dipende se non dalla sua forza nativa. E questo dovrebbe insegnarci che noi dobbiamo fare la nostra parte, come se tutto dipendesse da noi, sapendo però che tutto dipende da Dio. E il fare la nostra parte che cosa vuol dire? Vuol dire metterci la cura, metterci il nostro lavoro, ma soprattutto la nostra preghiera. Noi in teoria lo sappiamo che la preghiera fa miracoli. Poi in pratica noi ricorriamo alla preghiera quando va male. Ma in genere non partiamo col pregare. E la stessa cosa vale, cambiando un po' le cose, anche nella vita, perché il Vangelo è sempre stato un grande libro di insegnamenti anche per l'esistenza. Prendete un figlio. Un figlio ha dentro di sé, come un seme, tutto ciò che gli occorre per la sua crescita. Gli scienziati ci diranno il suo DNA. Anche il seme ha il suo DNA. Come il seme, anche un figlio va seguito, va coltivato, senza pensare però che tutto dipenda da noi. Come per il regno di Dio, il seme stesso si sviluppa con la nostra attenzione, con la nostra collaborazione, ma non dipende essenzialmente da noi, così un figlio. Dipende essenzialmente dal suo creatore. E allora quello che noi possiamo fare per il regno dei cieli, quello che possiamo fare per un figlio è il pregare. È il pregare, amici. Noi anche per un figlio in genere preghiamo quando va male. Quante telefonate io ricevo, guardi, mi mandi una benedizione, preghi, lo ricordi, sì, lo facciamo, ma noi dobbiamo affidare continuamente un figlio a Dio. Dio gli ha dato tutto, non gli manca niente, come a un seme non gli manca niente. Si tratta però che noi dobbiamo partecipare all'azione creativa di Dio con la preghiera. Io credo, cari cristiani, che noi dobbiamo pregare molto di più per la nostra comunità, perché torni a far fiorire i semi di fede che Dio ha seminato dentro anche negli anni passati e che magari sono latenti, sono silenziosi, hanno bisogno della nostra preghiera per crescere. E la stessa cosa per i nostri figli, amici. Preghiamo, preghiamo, preghiamo. Io mi permetto di dirvi, la messa quotidiana e il rosario quotidiano. Quando dico queste cose, in genere la gente mi dice: ma non ho tempo. Va bene, il seme crescerà ugualmente, il figlio crescerà ugualmente, ma senza la nostra partecipazione